redigio.it e la storia continua. I buffoni e la loro storia. Uno scrittore che ebbe rinomanza e godette di molta autorità fra gli stessi sovrani del XVII secolo fa derivare la parola buffone da una festa curiosa istituita in Attica dal re Eroclotide. Sembra che una volta un sacrificatore, cioè una specie di sacerdote del tempo, dopo aver immolato sull'altare di Giove Poliuto, un primo bue, forse scappato improvvisamente, abbandonando sul luogo la scure e gli altri strumenti necessari per il sacrificio. Sembra pure che quella fuga improvvisa costituisse un grave delitto, poiché nelle calcagna del sacrificatore furono lanciati subito i soldati ad arrestarlo. Ma le ricerche riuscirono vane. E il re dell'Attica, per placare in qualche modo l'ira degli dei e del popolo, ordinò che fossero messi sotto processo e condannati la scure e gli altri strumenti abbandonati dal fuggitivo. Quei giudici più vicini a Salomone, che non siano quelli del nostro tempo, per attenersi alla via di mezzo, assolsero la scure e condannarono gli altri strumenti. Manca un elenco di questi strumenti per giudicare il loro grado di responsabilità ed è il criterio che adottarono i giudici sentenziando. Ma si sa che la sentenza divertì tanto il pubblico e lo fece così ridere che il buon re Eroclotide decretò che ogni anno si rinnovassero in finzione il sacrificio del bue. La figura del sacrificatore, l'arresto della scure e degli altri strumenti e il giudizio e la sentenza. E da allora allo spettacolo si diede il titolo di buffonata e agli attori quello di buffoni, in ricordo del vero sacrificatore fuggitivo che si chiamava senza malizia Bapo. Ma non si deve proprio prendere per oro colato l'opinione di questo scrittore, perché esiste un suo contemporaneo che ebbe anch'esso fama di erudito, un certo signor Sumais, il quale invece di derivare il titolo di buffone da quello di buffo, con cui al tempo dei Romani si designavano quegli attori che si presentavano sul teatro con le guance gonfie per ricevere da altri attori dei piccoli schiaffi. Sembra che il rumore che producevano le guance sgonfiandosi a ogni colpo divertisse molto i conquistatori del mondo, che in quanto a spettacoli teatrali, come si vede, dovevano essere alquanto più facili accontentarsi di noi. E nei tempi antichi, l'usanza di tenere, non solo a corte, ma in ogni casa che si rispettasse, dei buffoni, o anche dei pazzi, che molto probabilmente non dovevano essere furiosi, risale a tempi lontani e cominciò, come facile intuire, in Asia e in Egitto. E le tombe antiche dei primi secoli della civiltà e sono lì per provarlo. Ecco, per esempio, la tomba di Eptanomide. Sulle sue pareti chiaramente si vedono i signori egiziani accompagnati e seguiti da uomini contraffatti e grotteschi. Naturalmente quelli erano i buffoni. Dall'Oriente l'usanza passò in Grecia e naturalmente dalla Grecia a Roma. E siccome l'ora dei pasti è sempre stata quella che più avvicina l'uomo alla bestia e quindi l'ora migliore della giornata, così tanto i persiani quanto i greci e i romani e gli altri che vennero dopo, proprio nell'ora dei pasti, per dimenticare più prontamente i gravi fastidi, per rasserenare lo spirito o meglio disporre lo stomaco alla gioia del pasto, per avvicinarsi insomma di più e più presto alla bestia, chiamavano accanto a sé i buffoni perché dessero corso al loro buon umore tenendo allegri i convitati. Al tempo dei Romani, i signori che più si volevano mettere in evidenza si facevano seguire da un vero corteo di buffoni. Chi abbia letto Plutarco sa che Silla ebbe una passione inestinguibile per essi e che con essi visse in intimità, tanto che prima di morire si compiaceva di imitare le loro licenze. Del resto è noto come Antonio, nel banchetto di nozze del suo buffone Ippias, mangiò e bevette così smodatamente che il giorno dopo nel foro fu costretto a svuotarsi in pubblico, e per la stessa via della bocca di tutto quello che aveva mangiato e bevuto. E lo stesso Plutarco narra con vera indignazione che, come il suo palazzo, quando egli era triumviro, fosse chiuso ai generali e agli ambasciatori e aperto ai buffoni e agli istrioni di tutte le specie, cosa che non deve meravigliare i giorni nostri. Né ciò basta. Dopo la seconda battaglia di Filippi, quando si recò in Asia per levarvi le somme d'argento promosse ai legionari, entrava nelle città, preceduto e circondato da una schiera di istrioni asiatici che superavano nelle grossolane piacevolezze i buffoni che con sé aveva portato dall'Italia. Si capisce come, con questi esempi, l'uso dei buffoni, scendendo dall'alto al basso, si propagasse e si prolungasse così da durare non soltanto per tutti i tempi di mezzo, ma anche fine ai tempi dell'Evo moderno. Esopo potrebbe essere considerato, come sempre fu, fino a che Giambattista Vico ne pose in dubbio l'esistenza, come più grande dei buffoni, e se non come il capostipite, certo come il più celebre che sia mai esistito. E si dice che sia esistito, perché, malgrado l'opinione autorevole del Vico, bisogna proprio credere che abbia vestito panni e si sia passato su questa terra, e se ne precisa la data di nascita nell'anno 620 avanti Cristo a quello della morte del 540. Sembra che Esopo, dopo aver passato quale buffone al servizio di vari padroni, si sia definitivamente fermato presso un tal Xanthus, che gli diede il titolo di folle saggio, non soltanto per la profondità morale delle sentenze che diceva motteggiando, ma anche perché riusciva prontamente a trarlo dall'imbarazzo in cui deplorevolmente cadeva assai spesso. Così, una volta Xanthus, essendo ubriaco o quasi, scommise che avrebbe bevuto al mare, e poiché i commensali lo canzonavano, si adirò e fissò il giorno in cui avrebbe bevuto il mare e pose regolarmente come posta tutte le sue sostanze perfino la sua casa. Se non che, non appena passata la sbornia, compresa l'enormità che aveva commesso, e cominciò a disperarsene, malgrado fosse un filosofo. Esopo lo confortò e gli disse che nel giorno della scommessa, l'ora fissata, si fosse recato alla riva del mare, ove i suoi commensali lo avrebbero aspettato con aria di trionfatori, perché lui lo avrebbe accompagnato e la strada facendo gli avrebbe dato un consiglio, e tutti coloro che già si presumevano vincitori sarebbero rimasti come allocchi. E infatti, puntualissimo, nel giorno e nell'ora stabiliti, Xanthus giunse sulla riva del mare al punto indicato e vi trovò raccolto tutto il popolo di Samos, desideroso di assistere alla sua sconfitta e forse anche alla sua morte. E con grande solennità egli disse: «Sono qui per compiere quanto mi sento ancora capace di fare, ma io ho scommesso di bere tutto il mare, ma non i fiumi che in essi entrano. Colui che ha scommesso come me devi prima il corso dei fiumi, poscia io berrò il mare. Il popolo, sorpreso da questa bella trovata, applaudì e Xanthus rimase in possesso delle sue sostanze e della sua casa. Conclusione. Se si volesse eseguire attraverso le storie delle varie epoche e le cronache le vicende dei buffoni, molto probabilmente il significato dispregiativo del loro titolo si muterebbe, se non completamente, di molto. Poiché, se ogni buffone non fu un Esopo vi fu in ogni buffone. Certo è, ad ogni modo, che in ogni tempo il buffone mostrò di comprendere che la gaiezza è necessaria alla umanità più della filosofia e che la miglior filosofia è quella che insegna a vivere in letizia. Per merito dei buffoni, da che il mondo esiste, il riso poté accompagnarsi alla crudeltà e alla tirannia, mitigandola e spesso facendola rientrare nell'orbita della serenità e della giustizia. Non tutti i buffoni, certamente, furono rivendicatori di torti e protettori delle debolezze, ma spesso l'offeso e il debole, dalla gaia risata da essi suscitata, ottennero quel riconoscimento dei loro diritti che loro era già stato negato.